avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait le val de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un peu. Prevedevo già da ieri sera che questa sarebbe stata una mattina travagliata per un po' di persone. Immagino che la notte che l'ha preceduta sarà stata ancora più riempita di angosciosi presagi. Sì, perché, come avete già sentito annunciato in anteprima dal giornale di Radio 24, questa mattina sono stati dati i nomi di 10 presunti omosessuali illustri. Vi riassumo la storia. Tempo fa, un paio di settimane fa, uscì la notizia che c'era un misterioso sito, Lista Outing, che annunciava che il 23 settembre, giorno dell'equinozio d'autunno, alle ore 10 sarebbe stata pubblicata una lista di 10 politici omosessuali nascosti. Questo perché? Perché il livello dello scontro sulla lecita e pacifica ammissione che l'omosessualità non sia un reato, non sia da discriminare, non sia un comportamento da censurare, è arrivato a punto tale che un gruppo di nascosti clandestini omosessuali organizzati ha deciso: noi sputtaniamo quelli importanti. Tutto nasce anche da una proposta di legge che nasceva da Paola Concia, che prevedeva un inasprimento di pene nelle violenze quando c'era l'aggravante di una discriminazione di omosessualità nei confronti della vittima. Per ben 2 volte è tentato di passare questa proposta di legge, era anche appoggiata dal ministro delle pari opportunità Mara Carfagna, però non è passata. Quindi questi sono stufati e l'hanno detto: usiamo uno strumento cattivo, crudele, violento, quello dell'outing. La scarsa informazione su questi temi fa sì che molti confondano l'outing con il coming out. L'outing è una persona che decide: beh, io ti sputtano, dico che tu sei Finocchio, la trasformo in modo che tutti capiscano senza girarci tanto intorno. Il coming out è uno che dice volontariamente: guardate, io sono omosessuale, non me ne vergogno, perché devo tenere nascosta questa mia condizione. Beh, questa mattina vorrei capire, visto che sono uscite le liste da pochi minuti, visto che immagino fra un po' ci saranno dichiarazioni, persone che smentiranno, partiranno denunce, anche se poi non è che sia un reato l'essere omosessuale, però è un precedente che merita di avere riflessioni. In studio con me per parlarne ho l'unica persona che ha dormito tranquilla stanotte, che è Paola Concia. Paola, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ecco, tu hai dormito tranquillissima, che hai messo le mani avanti, sì. Ti sei anche sposata, quindi nessuno ti può... Sì, poi ho dormito tranquilla perché ieri è tornata Riccarda in Italia. Sei riunita la tua dolce metà. Mia ti prendo un po' in giro adesso. Perché prendimi in giro, sì. Sposini novelli, queste cose zuccherose. Però hanno anche provato a menarvi per strada. Quindi, tanto zuccherose. Beh, tu l'hai fatto. Ma Riccardo non è una donna zuccherosa. Sì, una tedesca, sembra. Austera. Sì, fa anche un po' paura. No. È bella, però sì, dai. Sì, un po', sì. La Mussolini infatti ieri ha detto: ah, moglie buona dei paesi tuoi, non ti dovevi sposare una tedesca, ti dovevi sposare un'italiana. Beh, stai zitti, sugli amori con i tedeschi deve interrogare le sue radici familiari andando molto indietro. Ecco, comunque, andiamo al punto. Paola, non sì. È proprio un gioco questa cosa qua. Io mi immagino che stamattina, vi li ridico i nomi, tanto ormai sono usciti, sono pubblici, è uscita una lista, questa lista outing di 10 politici che apparentemente, secondo quello che dicono questi signori, hanno fatto battaglie strenue a difesa dell'eterosessualità, della normalità, della regola, però sotto sotto, dicono loro, in realtà hanno comportamenti che smentiscono questa loro presa di posizione. Sarebbero Ferdinando Adornato, chi l'avrebbe mai detto? Impossibile. È come c'è un film di Verdone in cui gli dicono: John Wayne e Finocchio, ti ricordi? E lui dice: no, non è vero, non è possibile. Però era vero. Però era vero? No, questo non lo so. No. Non lo so. Beh, Adornato, Mario Baccini, Paolo Bonaiuti, Roberto Calderoli, Massimo Corsaro, Roberto Formigoni, no, Maurizio Gasparri, impossibile, Gianni Letta, Marco Milanese e Luca Volonté. Ora, 10 nomini messi in fila così possono non dire niente, può sembrare una facezia, può sembrare un gioco fra compagnoni, ma in realtà ha un peso questa cosa. Dimmi il tuo commento a caldo. Ma guarda, io come te, come tutti, sapevo di questa data, sapevo... Sapevi anche che, i nomi? No, sapevo che sarebbe accaduto questo e ho sempre cercato, come voglio cercare anche qui oggi con voi, di dire quello che ho sempre detto, una cosa che penso, cioè io credo che questa intanto sia anche un po' una resa della politica, no? Cioè nel senso è uno strumento, è un modo di fare battaglia politica estremo. Al di là appunto della verità, non, cioè è un modo di fare battaglia politica estremo. Posso entrare in un particolare, scusami. Cosa vuol dire poi? Ti metto una lista, sei omosessuale. Sono andato una volta nella vita con una persona del mio sesso. Pratico continuamente. Lo sono, ma non lo pratico. Lo faccio perché mi piace, ma in realtà sono. Cioè, cosa significa? Io voglio dire, appunto. È difficile definirlo questo. Come colpa. No? Intanto, appunto, dicendo che questo è un modo estremo di fare politica. Che a me personalmente, che sono tantissimi anni che faccio una battaglia alla luce del sole con gli strumenti dati dalla politica, dentro il Parlamento, fuori dal Parlamento, non ti è mai venuto in mente di fare una cosa del genere? No, non fa, e questa cosa non fa parte della mia cultura politica. Detto questo, attenzione, diciamo, noi, siccome tu sei un uomo intelligente e colto, attenzione a dire, intanto diciamo una cosa subito, dire a una persona che è omosessuale non è un insulto, no? E se noi diamo per assodato questo, possiamo ragionare serenamente su questa vicenda. Diamo tanto dei numeri di telefono 800 24 0024, penso che da parte di chi ci ascolta qualcuno avrà da dire la sua, trovate certo. Che sia giusto fare un'azione del genere. Io ricordo, avendo fatto scuola dai Salesiani, come arrivavi in matricola nel primo anno del ginnasio, i più grandi subito ti davano del finocchio, era il primo perché, certo, perché c'era un ambiente sociale, certo. Quindi diciamo, per un uomo pesa, ecco. Saviano stesso l'ha detto, ci sono le 10 cose che se le fai sembri gay, bere la birra con il limone dentro, tutta una serie di cose. Esiste, diciamo, una pubblica maniera di svergognare una persona dicendogli sei poco uomo. Quindi l'insulto in realtà c'è, non c'è la colpa in sé. Esattamente. Allora, io voglio dire questo. Ci vogliamo tutti interrogare, però, e vorrei che questo lo facessimo con te e con gli ascoltatori, sul perché. Io mi interrogo sempre su, appunto, quando, perché è successo, perché accade questo. Quando sono venuti l'altro giorno a buttare lacrimogeni contro il Parlamento, io penso che la violenza sia una cosa da condannare, ma non posso non pensare perché sono arrivati a quello. Secondo te perché sono arrivati a pubblicare? Non è mai successo, allora, non è mai successo in Italia, in altri paesi è una cosa che accade, è accaduta. Lo racconta anche l'ideatore dell'outing sulle pagine. Quindi di esiste come strumento politico, sì. È uno strumento estremo, appunto, che esiste, è esistito in altri paesi e ha costretto anche in altri paesi come in Germania. Però non l'hanno fatto nemmeno le Brigate Rosse ai tempi dei democristiani. In Germania e c'era una fila bestiale. Attenzione, capito? Gli sparavano ma non dicevano che era omosessuale. No, attenzione però, appunto, in Germania, in America, in questi ultimi anni alcuni senatori repubblicani si sono dovuti dimettere per questa ragione. Allora, perché lì nel loro paese, come in Germania e in Inghilterra, c'è un problema di coerenza. Lì l'accusa è sulla coerenza e credo che la linea di principio. Questi signori cosa dovrebbero fare? Questi tuoi colleghi sono te questa mattina? Ma io credo smentire, che non dovrebbero denunciare. Fare niente, cioè, dovrebbero dire quello che dicendo no, non sono omosessuale. Molti diranno la macchina del fango, sicuramente. Ecco, però io li invito a non usare questa parola, perché appunto, e potrebbe essere un grande passo avanti che facciamo tutti. Possono, faranno delle smentite dicendo no, non sono omosessuale, appunto. E questo sarebbe già un grande passo avanti, nel senso che se però cominciano a dire macchina del fango, offesa, e lo stigma si alza, diciamo, e anche si rialza la tendenza. E soprattutto si dà il senso di onta all'essere omosessuale. Esattamente, non è un'onta. Io vengo definita lesbica tutti i giorni, cioè mi viene detto lesbica perché, e lo sono, ma non è che mi viene detto in modo dispregiativo. Mi dice, l'unica parlamentare lesbica, viene scritto continuamente sui giornali. Ma non è una cosa di, non mi viene detto in modo dispregiativo. Se io non lo fossi, direi: guardate, no, non scrivete omosessuale perché non lo sono, ma non perché è un'onta. Ecco, io immagino che molti porteranno le mogli a prova, a testimonianza. Ecco, io cose... invito capisco che di fronte a una cosa estrema, capisco che le reazioni possono essere estreme, ma diamo dei consigli per l'uso. Ecco, il consiglio che io do a loro è quello di non alimentare lo stigma sociale, nel senso che può essere un modo, e anche cercare di capire loro stessi perché, insieme a me, insieme a tanti che vogliono capire come te. Allora, sono 30 anni, perché si è arrivati a questo? Non perché è stata bocciata la legge contro l'omofobia, la legge contro l'omofobia è stata bocciata due volte, è perché in questo paese l'unico movimento che non ha avuto mai uno straccio di diritti, c'è il movimento delle donne, il movimento pacifista, il movimento ambientalista, tutti i movimenti che in questi anni hanno fatto grandi battaglie civili, hanno avuto dei risultati. Ecco, il movimento omosessuale e transessuale nel nostro paese non ha avuto uno straccio. Tu dici di concreto nulla. C'è una grande tensione tra gli omosessuali, lo si vede, diciamo, nella c'è stato gay.it che ha fatto un sondaggio, il 75% era d'accordo, ma io lo vedo nella rabbia quotidiana degli omosessuali che scrivono sulle mie pagine Facebook. Quindi è iniziato il momento della rabbia, anche perché lo sai, perché la lista pare siano 100 persone, tra cui anche altri prelati. Ecco, quindi allora, se ne sono usciti 10, usciranno anche gli altri 90. C'è un'insofferenza, c'è l'odio per la politica, la casta, cioè tutto questo, no? Tutto questo fa parte di questo clima. Allora, noi cerchiamo di capire perché si è arrivati a questo gesto estremo, che io continuo a dire che è un gesto estremo, che non fa parte della mia cultura politica. Dopodiché, appunto, quelli di cui i nomi sono stati fatti, capisco che appunto debbano rispondere in qualche maniera. Ma io mi auguro che rispondano in modo intelligente. Sentiamo qualche ascoltatore. Ecco, abbiamo messo un po' in fila gli ascoltatori. Tiziana, buongiorno. Buongiorno, ecco. Senta, io volevo precisare che ritengo che non si debbano fare distinzioni sulle scelte sessuali. Se le persone etero e homo si comportano come dovrebbe essere per tutti, con discrezione eccetera, mi sembra assolutamente normale, è un non problema. Trovo che invece questo atto sia di una violenza e di una inciviltà incredibile, perché se uno non ha deciso autonomamente di fare outing, è un problema suo, non deve essere assolutamente, secondo me, un obbligo. Non si considera, tra l'altro, le ricadute che una cosa di questo genere può avere sui familiari di queste persone, che quindi si possono creare... Sì, posso dire una cosa, Tiziana? Se oggi uscisse una lista, ho scritto Gianluca Nicoletti omosessuale, i miei figli si fanno una risata, mia moglie ride ancora di più. Non è detto che tutti, scusami, permetta, non è detto che tutti, cioè i nuclei familiari sono allargati, ci sono magari persone di tante età con tanti modi di vedere, quindi mi sembra che una scelta di questo genere dovrebbe essere lasciata alla sensibilità personale. Sì, questo sono d'accordo, senz'altro. Ecco, e poi per adesso dico questa piccola malignità, perché ovviamente sono usciti soltanto pochi nomi, poi spero di essere smentita, eccetera, per adesso sono usciti solo politici di centrodestra, quindi un po' maliziosamente mi chiedo come mai. Comunque, signora, le posso dire una, cioè, no, quello che dicono questi del sito, nel loro, dicono che sono quelli che hanno dato contro la legge. Non è una cosa che dicono, che si sono espressi sempre contro i diritti degli omosessuali. Ma questo, signora, ma lei non pensa che anche tutte queste pubblicazioni che sono state fatte in questi giorni, pensi che ci sono state delle donne di Bari, io lo so perché sono eletta in Puglia, quindi una signora di Bari che ha dovuto querelare, denunciare perché è stato fatto il suo nome tra le escort, invece è una nota imprenditrice della moda, che era stata una sera a una cena con tutti gli imprenditori della moda, è stata messa nella lista. No, che pensa lei di questo, di tutto questa quantità di racconti che abbiamo? Signora, lei può immaginare, io sono di sinistra e penso che Berlusconi se ne debba andare per tantissime ragioni, le cui più importanti è che ha governato e governa male questo paese. Tu dici però anche intorno a Berlusconi ne sono state alzate. Ma c'è della gente che è uscita fuori in quelle intercettazioni. Condivido, credo di capire cosa lei voglia dire, e lo condivido pienamente. Dico che c'è una corresponsabilità spaventosa da parte della categoria dei giornalisti, anche dei giornali più accreditati, e dico con grandissimo rammarico, perché io leggo, ho 64 anni, leggo da quando ho cominciato a leggere il Corriere, e certo, per me anch'io. Anche quindi giornali titolati, non i giornali spazzatura eccetera, indulgono ormai a tutti i livelli, per quanto riguarda il mondo della politica, dello spettacolo, eccetera, cioè hanno comportamenti da gossipari, ma talmente scandalosi, che io sono veramente sbalordita all'idea che il giornalismo assecondi o manie di protagonismo o pettegolezzi. Lei dice Tiziana, ho capito, non è che voglio difendere la categoria. Sì, le do ragione in pieno. No, signora, appunto, io penso che le cose gravissime, cioè, voglio dire, io penso che un premier c'è un problema di comportamenti del capo del governo. Io penso che ci sia ovunque, penso che i suoi comportamenti sono sbagliati. Paolo, scusami. Penso che lui è le cose gravi che ha fatto sono cose legate alla corruzione, signora. Ma ritorniamo alla lista dei gay. Non è ti voglio, però sembra sempre Berlusconi è al centro dell'immaginario comune di tutti, e ne abbiamo parlato, abbiamo citato che uno dei motivi che è l'innalzamento del clima che si è creato, per cui ripeto la notizia, questa mattina in un sito, come era stato annunciato, sono usciti i nomi di 10 politici illustri, illustrissimi, di prima riga, che avrebbero nella loro vita privata comportamenti gay, e su questo ragioniamo, sull'attezze. Sentiamo Fulvio. Fulvio, buongiorno. Buongiorno e buongiorno anche a Paola. Buongiorno. Allora, non lo so, a me viene un po' da ridere, devo dire la verità, perché... sì, l'abbiamo presa a ridere, sembra le facezie dei tempi del liceo. È vero, hai ragione Gianluca, perché guarda, cioè questa cosa qui... Questi rideranno un po' meno però, perché... Il problema è proprio questo, perché fino a quando la propria preferenza sessuale, quello che fai a letto, diventa una cosa da giornali, che secondo me proprio veramente non c'entra niente, è giusto che venga fuori anche... cioè, scusatemi, non è giusto. Questa provocazione risponde a, che è una provocazione sicuramente, risponde a tutti, a tutta questo cambio dei valori che il nostro presidente del Consiglio attraverso i media ha messo per primo in atto sulle televisioni e quant'altro. Quindi la lista dei 10 nomi è colpa di Berlusconi anche quella. No, attenzione, dico che il fatto di andare a parlare di preferenze sessuali che dovrebbero riguardare semplicemente la sfera privata delle persone. Ha sbandierato la sua eterosessualità. Esatto. Quindi le conseguenze se è caduto questo. Quindi una reazione, diciamo, alla satiriasi presidenziale, qualcuno ha dovuto opporre il fatto, cioè, beh, guarda, però fra i tuoi ce ne sono tanti che in realtà sbandierano, come accade ci dimentichiamo tra i barbieri di paese. La quantità di offese che sono state fatte in questi 3 anni e mezzo agli omosessuali. Cioè, ieri, l'altra sera, Emilio Fede ha detto delle cose consuetudinarie. Sì, l'ha detto alla Zanzara. Sì. Una cosa pazzesca. A me sono state se continuamente. Se mi viene a trovare, mi paro il culo. Cioè, come se Vendola fosse attizzato. Mamma mia, ragazzi, ma voi ci avete idee che cosa vuol dire per un omosessuale? No, voglio... sentirsi dire, io da quando mi sono sposata, no, lo dico anche a Fulvio, cioè, ho ricevuto una quantità di insulti nel mio paese che non racconto neanche tutti a Riccarda, perché quella si arrabbia. Sì, però queste sono ripeto, ecco il clima da facezza di paese, da bar di politici, periferia, non dai cittadini. Sì, i cittadini assolutamente, guarda, gli italiani sono stati affettuosissimi nei miei confronti, i politici in genere, no? E quella la Santanchè ha dovuto dire che io faccio schifo addirittura. No. Mamma, fermati un attimo, devo dare la linea. No, sei una bella gnocca, sta tranquilla. Dobbiamo dare la linea alle informazioni della borsa, ci fermiamo per un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagages à chaque doigt. 800 24 0024, stanno molti commentando, quella è la notizia di questa mattina, molti dicono è colpa di voi scellerati giornalisti, se foste stati zitti la cosa sarebbe caduta nell'ombra. Non credo tanto, perché mi scrive un ascoltatore che la seconda chiamata in Google Italia in ordine crescente, politici gay, quindi tutti stanno guardando in rete vedere i nomi di 10 politici che sono accusati, sono sottolineati nel loro comportamento omosessuale da List Outing, questo sito che aveva annunciato qualche settimana fa cominceremo a dare una lista di 100 persone, illustri politici, prelati, gente che appartiene al mondo della finanza, dell'industria, insomma un po' tutti conosciuti, che tengono nascosta il loro comportamento omosessuale. Lo facciamo perché siamo stanchi. Io ho in studio Paola Concia, che è una parlamentare che non ha mai fatto mistero delle sue preferenze sessuali, tanto che si è anche recentemente felicemente sposata con la sua compagna, e quindi questa mattina a cuor leggero, senza tema di essere messa in nessuna lista perché a lei non gliene importa nulla, raccontiamo questa storia. Mi domando una cosa però, Paola. Sì. Sono anni che parlamentari che hanno fatto il loro coming out come grillini minacciano una lista, ho i nomi, Vladimir Luxure, mi hanno fatto l'avanza, sapeste quanti, però nessuno mi ha tirato fuori un nome. Ma non è che con questa idea dire tanto andiamo alla stessa sauna, tanto andiamo negli stessi posti, c'è una sorta di potere sommerso che si gestisce anche il gay manifesto? Ma guarda, io in questi 3 anni e mezzo che sono in Parlamento, a me non è mai capitato che qualche mio collega si sia avvicinato appunto per chiedermi, mai, più che altro i miei colleghi si avvicinano per corteggiarmi, lo dico scherzando, ma insomma è anche vero, insomma. Ma tu li provochi? Non si sono mai avvicinati a me, ma come so, Vladimir Luxura, che scusa, il confronto tuo, diciamo. Cioè lo raccontavano Vladimir e Franco, non è che sono cose segrete, lo hanno detto potendo scegliere, scusa, mettendo adesso, non voglio fare discriminazioni, sei meglio te, cioè perché a Luxuria gli hanno fatto l'avanzo e a te no? Perché perché c'è una passione maschile. Cosa c'ha lui, cosa c'ha lei che non hai trans. Te? C'è qualcosa di fondamentale che io non ho. Allora andiamo al punto, però noi ci stiamo scherzando. No, perché c'è una cosa di uomini, no, di Vladimir no, ma diciamo probabilmente c'è una, come si dice, una confidenza maschile, cioè è chiaro che penso che sarebbe stato difficile venire a chiedere a me se sapevo di una sauna. Io non ci sono mai stata in una sauna. Ma anche le donne vanno alle saune. Ma appunto, io è una cosa che non esiste tra le donne. C'è questo mito delle saune dove sono anni, però posso dire anche le voci di sottobosco di redazione, anni che dicono, sai quel politico, lo vedono nelle saune. Io non ci sono mai stata. Se uno va nelle saune si sappia che non è un reato. Probabilmente che sanno anche che io non le conosco. Sai cosa penso proprio questa mattina? Ti volevo parlare di una. Sì, a proposito, faccio questa della domanda. Rabbia dopo. Fammi fare questa domanda. Secondo me questa mattina, ad avere veramente paura, non sono tanto i politici che avranno i loro strumenti per smentire, denunciare, ma certo, sono i loro portaborse, i loro segretari particolari, i loro autisti, e gli scavezzacollo che si portano intorno quando vanno in giro, che tremeranno questa mattina, perché il bello di questa lista è finalmente toglie questa idea che in realtà ci sia una sorta di lobby sommersa di potere gay che alimenta persone che ne vivono comunque ai margini. Così finalmente saprà, se avranno il coraggio questi 10, ammesso che sia vero, di dire sì sono gay e che male c'è, non ci sarà più questa cosa, cioè, vedi quello lavora da quel politico, è perché queste voci da barbiere di paese che girano. Beh, noi siamo un paese così e capisco anche che in questo paese questa cosa è una bomba atomica, ma lo capisco, cioè, e lo soffro anche, nel senso che tutti sanno come io faccio questa battaglia e la faccio in modo diverso, per cui per me è una sofferenza oggi e vorrei disperatamente, ma lo dico anche a quelle 10 persone che oggi sono messe alla gogna, vorrei che da questa cosa se ne ricavasse una cosa positiva, lo dico a tutti, anche quelli che sono contro questa cosa. Sarebbe interessante, riuscire a uscirne tutti come una catarsi, no? La vedo molto più complicata. Lo so che è una cosa ambiziosissima, probabilmente. Secondo me lo sai, dovrebbero vestirsi come Tognazzi nel vizietto, tutti e 10, e andare a braccetto, così uno dice vabbè, vero o non vero, ci ridiamo sopra. No, se si può. Se sentiamo Bruno un attimo, Bruno. Sì, il gesto. Bruno, eccoci qua. Sì, buongiorno. Buongiorno. Bella. Allora, buongiorno a tutti. Niente, il discorso è questo. Io sono un eterosessuale, ho conosciuto molto e molti omosessuali nella sua vita, perché sono una categoria di persone molto sensibili. Sì, ma non diciamo i soliti luoghi comuni, però tanti amici omosessuali sono luoghi comuni. Sono dei mostri, sono delle bestie di cattiveria, non ci diciamo, adesso sono sensibili. Io mi sono avvicinato a loro proprio per la loro sensibilità, eccetera. Sì, sono sensibili, sono come le persone di tutti sì, i tipi. Naturalmente, al di là di questa sensibilità di fondo che hanno, poi hanno i loro difetti, le loro cattiverie. Ma sì, ma sono persone normali come le altre, questo lo dire. Certo. Cioè, lei preferisce la carne o il pesce? Lei a tavola preferisce la carne o il pesce? La differenza è questa. Siccome io non discrimino le persone, nessuno discrimina in base a quello che mangiano. Dice, a me mi piace la gallina, no, io preferisco la farona. Penso sia la stessa cosa, più o meno. Quando vado a letto preferisco gli uomini, preferisco le donne, preferisco gli animali da cortile. Ognuno fa quello che vuole, penso. Comunque, rimane il fatto che questo fatto che di cui stai discutendo stamattina, cioè questa lista che è stata messa fuori, è la prima volta nella storia nel nostro paese. È una cosa stupida, ma non solo stupida, è anche una cosa illegale, perché entra nella vita delle persone in maniera come se fossero dei carri armati, capito? Queste sono persone che se volevano dichiarare la loro omosessualità l'avevano già fatto, se no lo faranno prossimamente. Ma però guardi, scusi, non c'è un'accusa, non è una chiamata. Ma secondo te dire a una persona, cioè, se tu dici a me lesbica, pensi che sia un'offesa? No, però, però siccome conosco anche lesbiche, fra l'altro, cioè nel senso omosessuale intendo a 360 sì, sì, gradi, donne no? E uomini, certo. Però voglio dire, non mi sembra il caso di mettere su al pubblico cose che le persone ritengono private, giustamente, perché anch'io... A me mi viene sempre da ridere questa cosa di Berlusconi, cioè purtroppo questa cosa del privato... Sì, il motivo scusa, no, ma Bruno, va contestualizzata la cosa. Sulla privacy, hanno detto questa cosa per, diciamo, da tanto tempo che c'è una battaglia per riconoscimento della discriminazione come aggravante rispetto a certi reati, va dicendo, le persone più strenuamente... attive nel contrastare appunto questo segno di civiltà sono persone che in realtà nella vita privata fanno questo. È un'illazione, non è provato, non è un reato, è equivale, lo sa, quando nel gabinetto di scuola ci si scrive sopra Giovanni Finocchio per prenderlo in giro, è la stessa cosa, è una scritta nel gabinetto di un liceo per prendere in giro una persona. Però noi ragioniamo perché accade questa cosa. Alessandro. Poi voglio... Sì, Alessandro. Poi voglio leggervi un... Allora, leggici il pezzo, Alessandro. Dunque, Cadu. No, è molto emblematico e a me fa anche piacere che ieri Libero abbia pubblicato questa lettera sfogo di un imprenditore, che Vicky Hassan, che è un grandissimo imprenditore della moda, quello che ha il marchio Energy, Energie tra i tanti marchi. Dichiarato omosessuale? Lui. Assolutamente, un uomo che io conosco, una persona deliziosa, e ha scritto una lettera bellissima su Libero. Lui è un liberale, Libero scrive che è di destra, insomma, un uomo liberale sicuramente, e è una lettera bellissima, le mie 10 cose che dico alla politica, no? Le mie 10 domande all'Italia, e alla fine lui, bellissimo, io le potrei sottoscrivere anche quando parla della destra, della sinistra, potrei sottoscrivere queste 10 domande, e lui alla fine dice: io mi sono stufato, basta, cioè io vivo da 32 anni con il mio compagno che è uno stimato medico, ho un rapporto monogamo, voglio i diritti, gli stessi diritti degli altri. E questa è significativa, lo dice un uomo liberale che legge Libero e che accusa il giornale Libero di essere troppo omofobo, di scrivere sempre questi articoli così feroci contro gli omosessuali, e lui racconta in questo bellissimo articolo che cosa succede in Italia, e dice anche: guardate che è inevitabile, vi travolgerà la realtà, è più avanti di voi politici, naturalmente è una lettera... Ma è chiaro che il mondo andrà di fronte a un fatto, non so se accadrà fra 10 anni o fra 100 anni. Speriamo in cui prima. Sarà totalmente indifferente la scelta sessuale, perché i problemi verteranno magari, su altre cose. Ma magari, sì. Io tra l'altro vivo una condizione, cioè in Germania, io e Riccardo, cioè è completamente diversa la vita. Io mi sono sposata lì, il comune di Francoforte, una cosa come un'altra, una normalità, una cosa, un senso di liberazione, di non essere sotto i riflettori. È una cosa... Ma liberazione, guarda, liberazione anche per noi eterosessuali, che non c'è sempre il doversi comportare in maniera diversa per far vedere che uno è liberale, che è aperto, quando poi onestamente io penso la maggior parte delle persone ne sbatta veramente tanto. Sì, veramente io tanto. Penso di sì. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait. 80024, 0024, ormai la lista dei 10 nomi sta circolando in rete, ripresa da tutti. Perfettamente inutile anche oscurare il sito, la stanno riprendendo tutti, rimbalzano, ci ridacchiano. È bello perché l'Italia in questa mattina sembra trasformata nel corso cittadino di un paese medio della provincia italiana, in cui passa la persona per strada e al suo passaggio dietro tutti mormorano. Ma come ci spiegava Paola Concia questa mattina, dietro questo gesto estremo, l'outing, la denuncia di 10 politici che avrebbero comportamenti discriminatori pubblicamente, ma in realtà nel loro privato praticherebbero l'omosessualità, ha una motivazione, ha un senso. Sentiamo due ascoltatori, poi andiamo avanti con Paola Concia. Marco. Sì, ciao Gianluca. Ecco. Io sinceramente... poche donne questa mattina, chissà perché, rimangono perplesse. Perché sono tutti uomini quelli. Perché gli uomini sento più colpiti, cioè. Ma, sì, Marco, scusi, posso fare una domanda? Ci mancherebbe. Cosa farebbe lei se nel suo ufficio, nel luogo in cui lei è più conosciuto, questa mattina uscisse una lista 10 omosessuali che lavorano con noi e lei fosse il primo? Cosa farebbe? Guardi, le devo dire la verità, pur essendo eterosessuale penso che oggi potrebbe essere addirittura un vantaggio. Il mio è un intervento. Lei dice sarebbe una botta di culo. Beh, guardi, non solo in senso letterale, ma anche ridurmi al livello di Fede che ha detto che Vendola se viene a trovarmi mi metto con le spalle al muro. Assolutamente no. Io credo questo, che forse oggi, al di là ora del rispetto che c'è, premetto di essere assolutamente... Però non è proprio così, guardi, non è vero, sarebbe un vantaggio. No, le dico, creerebbe intorno un alone di circospezione e di sorrisini che non credo darebbe molto piacere. Io credo che ci sia sicuramente il problema di doversi confrontare con la pochezza anche intellettuale di molti che guardano probabilmente anche a queste cose come a dei limiti o addirittura a delle, ahimè, malattie. Il problema credo sia un altro. Oggi, nonostante io veda, senta, ascolti e legga delle tante lotte che si fanno per rivendicare i pieni diritti degli omosessuali rispetto agli eterosessuali, credo di avvertire, o almeno questo è qualcosa di cui si parla anche con, a volte con gli amici, che in determinati campi addirittura l'essere eterosessuale è un problema. Beh, cioè tipo lo spettacolo, la musica, un cantante che magari fa una selezione, se ha dei gusti diversi. Si gira questa voce, gira questa voce. Non sono d'accordo, non è. Sì, ma sembra il film di, scusi, c'è un film. No, ma mica. Aspetta, Paola, fammi un esempio, mi fa ridere. Bene, c'è un film di Pozzetto che fa il ragazzo di campagna o fare l'attore. E per fare l'attore si tinge i capelli platinati perché gli hanno detto anche a lui che se non sembra gay. Non è esattamente questo così. Questo è lo stereotipo. No, ma io la capisco, però le dico che questo è lo stereotipo. È un po', appunto, sono le leggende metropolitane, come che tutti gli uomini omosessuali sono delle checche, come tutte le donne omosessuali sono delle camioniste. Cioè tutta questa leggenda metropolitana che gira intorno all'omosessualità, che lei può immaginare quanto a me dia fastidio. Io in linea di massima sono d'accordo con lei, infatti non guardo tanto al fatto che possa essere un vantaggio perché si è, tra virgolette, diversi dalla persona, diciamo, solita o noiosa che fa le sue scelte normali, quando poi di normale non c'è nulla, ovviamente, no? Guarda che sono noiosissimi anche gli omosessuali, Mamma mia, non c'è cosa più pallosa. Guardi, io che mi sono sposata per la seconda volta, so una che proprio che crede nella famiglia, mi sono sposata. Io penso che sia più legato, ma credo che questo poi probabilmente si potrà scoprire nei prossimi giorni, sia legato probabilmente all'idea che gli uomini di potere che possono fare delle scelte o possono influenzare delle scelte possono avere dei gusti sessuali tendenti a favorire alcune persone rispetto ad altre. È quello che dicevo io, però questo è il fatto che se fosse, sì, ma se venissero, se non ci fosse più il problema dei comportamenti sessuali, non sarebbe nemmeno questo limaccioso sospetto che esista anche la lobby sotterranea gay nella politica. Che anche questa è un'altra cosa, no, Paola? Sì, appunto, insomma, io sono d'accordo con Gianluca. Noi siamo sempre, appunto, cioè, siamo ossessionati dalla sessualità. Questo è il grande dramma di questo paese. Siamo assolutamente ossessionati. Nel nostro paese di omosessualità non si riesce a parlare in modo sereno, come che cosa vuol dire che io sono omosessuale, che amo Riccarda, che mi sono innamorata come ti sarai innamorato tu di una donna che hai incontrato nella tua vita, ho deciso che voglio condividere la mia vita con lei e vorrei provare a condividere tutto quello che è possibile con questo è l'amore, fa parte, cioè parlare dell'omosessualità come qualcosa che ha a che vedere con l'amore non si riesce, è sempre una cosa morbosa parlare dell'omosessualità. Perché infatti non si dice, non è legata all'amore, è legata alla sessualità. Esatto. Uno pensa subito, ma chissà che faranno quelle due. Questa è la cosa. Che facciamo? Facciamo l'amore, non facciamo l'amore, facciamo i viaggi. No, non voglio facciamo, Nicolò. Nicolò. Ecco. Buongiorno a tutti. Sì. Ma io ho fatto una riflessione in apertura di trasmissione. Quando lei, Gianluca, ha chiesto quale sarebbe la reazione consigliata a questi 10... Dica lei un consiglio. Sì. No, quello che mi ha stupito è che il consiglio non sia stato contemplata la possibilità che dicessero con molta serenità sì, sono gay e non c'è niente di male. Mi rendo conto che è una reazione Il far finta di niente è la reazione che ci aspettiamo tutti. Sì, perché noi non diamo scontato che essere scritti una lista corrisponda alla realtà, se poi no, lo vogliono dire. Guarda, se fanno finta di niente e non dicono che è una macchina del fango, io so già, con te, cioè, mi sembra già un passo avanti. Sì, dico, vabbè, chi se ne frega, no? Un passo avanti, ancora un po' più avanti, sarebbe quello di aspettarsi. No, di consigliare nel caso una realtà. Guarda che è un po' difficile, la maggior parte loro sono sposati con famiglia, vanno in tutte le parrocchie d'Italia a proclamare la rettitudine della compagine familiare tradizionale, è un po' difficile poi che lo dicano, ormai mi sembra che è un po' avanti. Questo spiega perché ci aspettiamo tutti una reazione negativa, certo è una cosa shock, è chiaro che ti aspetti una risposta shock, cioè, azione e reazione, è chiaro che no, ci aspettiamo. Come la leggenda metropolitana. Continuerò ossessivamente a dire sfruttiamo questa, ma lo dico a tutti, a quelli che sono d'accordo, a quelli che sono contro, sfruttiamo questa cosa per riflettere sulla privacy, però sulla privacy di tutti, su che cosa vuol dire la vita di un politico, la coerenza nella vita di un politico, che cosa vuol dire il fatto che un politico non abbia più una vita privata. Ma questo vale per tutti, vale anche per me, capito? Sì, cioè, io vorrei che noi ci interrogassimo su questo, appunto, su perché si è arrivata a fare questo gesto estremo, perché appunto sapere se è vero che questi signori poi vanno con nomi. A me piacerebbe disperatamente. Lo so che sono l'unica che vuole, insieme a Gianluca Nicoletti, che vuole fare un ragionamento diverso, e oggi tutti si scateneranno con la bava alla bocca, chi è più o chi è contro. Io mi immagino cosa sarà porta a porta, adesso sarà 10 persone ospiti. Io invece con continuo tutti i certificati in mano. Dal Radio 24, che è una radio seria, cioè, e dal programma Gianluca Nicoletti, a fare un appello a tutti, cioè sfruttiamo questa cosa per parlare seriamente di che cosa significa essere omosessuale in questo paese, di che cosa significa la privacy, di che cosa significa la coerenza in politica e di che cosa significa la vita pubblica di un politico. Sono gli argomenti che tra l'altro sono all'ordine del giorno, che ci hanno messo alla berlina di questo paese. Sai che stavo pensando? Alla Paola? Berlina del mondo mi hanno messo questo paese. È quello che pensa un po' Alessandra. Alessandra, buongiorno. Buongiorno. Velocemente, siamo in chiusura. Sì, niente, semplicemente io sentivo stamattina che si parlava appunto questa lista, eccetera. E al breve è l'inizio, ce ne sono altri 90, ce ne sono meno spesa. C'è pure Nicoletti. Io credo che tutto questo interesse alla fine sia soltanto perché l'Italia è un paese di pettegoli. E alla fine, siccome ci piace chiacchierare di qualcosa e anche del niente, se un tizio fa, se una persona nota anche, o tradisce, o appunto una relazione omosessuale, eterosessuale, quello che ti fa, tutto da occasione per chiacchierare. Ma poi perché siamo un paese di pettegoli, e i pettegoli, non c'è peggior ipocrita del pettegolo. Ci sono voluti 50 anni di Repubblica perché il fatto che un politico possa, se vuole, anche avere comportamenti omosessuali, si è uscito in maniera così clamorosa soltanto questa mattina. Grazie Paola Concia, grazie a quelli che sono intervenuti, e ti aspetterà una giornata molto intensa, perché penso che appena uscita di qua sarai l'interlocutore privilegiato di tanti colleghi. Ma io però sono partita bene, diciamo, oggi, e grazie a voi che mi avete dato la possibilità. Grazie anche a Fabrizio Intonti, grazie anche a Alessandro Chiappini, che sono naturalmente anche loro in lista, lo saprete fra qualche giorno. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.